Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, ben ritrovate e ben ritrovati su Valloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Valloon è una trasmissione che va in onda per l'appunto il sabato alle ore 14, che ritrovate il lunedì, al massimo il martedì mattina, in podcast sul nostro sito www.radiovalloon.info e che vi racconta per l'appunto la storia. Una storia che facciamo passare da tanti canali, la letteratura, la musica, le fonti, I libri, questa è la nostra grande passione, soprattutto quando si tratta di libri che hanno il sapore della biografia. Lo sapete bene, è una delle nostre passioni, quella dei percorsi biografici, che sono delle forme con cui raccontare dei passaggi della storia, ai noi quasi sempre del Novecento, però prima o poi magari ci apriremo anche a qualche altro aspetto del passato. Ci piacciono molto i libri, per l'appunto, che raccontano delle storie di vita, e di storie di vita andiamo a parlare questo sabato con un bel libro che racconta una storia di vita, per l'appunto, un percorso attraverso dei momenti caldi, diciamo, del Novecento, come sono stati quelli della Resistenza, della resistenza sul nostro Appennino, quelli che sono stati del secondo dopoguerra e quelli che sono stati degli anni 60, ma questo lo vedremo un po'. Il libro di cui andiamo a parlare è scritto da due nostri cari amici di Valloon, Alfredo Mignini e Enrico Pontieri, due storici di formazione si definiscono, con un po' di modestia. Alfredo, fra l'altro, lo conoscete perché l'avete sentito qualche volta ai nostri microfoni e sicuramente lo conoscete se guardate il nostro sito, visto che lo fa lui. E il libro che hanno curato Alfredo Mignini ed Enrico Pontieri si intitola Qualcosa di meglio, biografia partigiana di Otello Palmieri, edito da Pendragon nel 2019, quindi un libro fresco, freschissimo. Noi ne abbiamo sentito parlare una prima volta ad Oliveto, in una presentazione che c'è stata alle soglie del... o subito dopo del 25 aprile. Esatto. Ecco, diamo il benvenuto intanto ad Alfredo ed Enrico. Ciao, ben trovati e ben ritrovati su Valloon. Ciao Frey, grazie per averci invitato. Ciao, grazie. Bene, bene. Dicevamo, abbiamo sentito la presentazione, la prima di questo libro a Oliveto, in cui c'erano Alfredo, Enrico e c'era anche Otello Palmieri, questo personaggio che è al centro di questo libro, questo partigiano. E... chi è, insomma, Otello Palmieri, per iniziare a introdurlo nella nostra chiacchierata, pur essendo assente? Beh, Otello Palmieri è stato un rivoluzionario di professione, un giovanissimo partigiano dell'Appennino, del primo Appennino fra Bologna e Modena, che nel 44, a seguito di un rastrellamento, decide di entrare nei partigiani, come dice lui. E noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo, di intervistarlo a lungo e di ricostruire quindi la sua storia. È stato un comunista che ha avuto una storia molto particolare, perché come altri è poi stato costretto ad emigrare in Cecoslovacchia e ha fatto qualche anno d'esilio, è tornato dopo una assoluzione a Bologna e poi si è trasferito in Svizzera come operaio. Ecco, Alfredo, scusa, ti interrompo subito per chiederti una cosa. Ecco, ci hai raccontato un percorso che verrebbe da dire un percorso come tanti, forse, se non fosse per l'esilio che fortunatamente non tutti i comunisti emiliani hanno dovuto affrontare, perché altrimenti questa regione sarebbe stata vuota. Però ecco, cosa ci racconta la biografia di Otello Palmieri del comunismo emiliano, ecco, di questa immagine del comunismo emiliano che alle spalle, ma molto spesso è anche un po' caricaturale, questi comunisti buoni, tutti rossi in Emilia, poi dopo verrebbe da dire un po' il contrario di questi tempi, però, cioè, cosa ci racconta, ecco, Otello Palmieri di questo, con il suo percorso, che è molto specifico, molto particolare e anche molto interessante da leggere. Sì, esatto, lui ci racconta un po' una storia a contropelo, se vogliamo, una storia leggermente diversa da quella che conosciamo di più, che abbiamo studiato, che abbiamo incontrato sui libri, che con più facilità riusciamo a trovare anche nell'autonarrazione che questo territorio ha di sé e della sua forte appartenenza politica, almeno nel corso del Novecento. Otello è stato un partigiano invece che, come dice lui, di nuovo lo cito perché perché è molto significativo quello che dice. Ne ha fatte più dopo che prima, più dopo che prima, prima del 25 aprile. Cioè un partigiano che continua il suo impegno, continua in parte la clandestinità dopo la fine della guerra, e che soprattutto, come altri in giro per l'Italia, ma meno ne sapevamo di quelli bolognesi, il 14 luglio del 48 pensa che sia arrivata l'ora X, che sia scattata l'ora X, che quindi sia il momento della rivoluzione. Insieme ad altri compagni recupera un deposito di armi, da un deposito di armi recupera degli armamenti e si dirige su Monteveglio occupandone il municipio e distribuendo le armi ai cittadini lì arrivati, ecco. No, piccola parentesi, fra l'altro, naturalmente quando troverete il podcast il lunedì, martedì, ecco, della puntata di oggi, troverete anche il link della puntata dello scorso anno in cui proprio con Alfredo avevamo chiacchierato del 14 luglio a Monteveglio, che era proprio, diciamolo, uno degli albori di questa ricerca. Quindi troverete questa bellissima storia sulla pagina, perché rilinkeremo il podcast alla puntata che ricostruiva il 14 luglio. Assolutamente, e con la partecipazione di Enrico, che anche già allora aveva dato uno sguardo, aveva dato delle correzioni e un suo parere. Allora, prima di passare la parola ad Enrico, siamo nel 14 luglio del 1948, siamo in Emilia, ma noi con la musica vi portiamo da un'altra parte. Vi portiamo in Francia perché abbiamo voluto proporvi una serie di ascolti per questa puntata con musicisti degli anni 80-90, primi 2000, francesi, che però hanno il merito di raccontare tutti i percorsi di fuga, di libertà e di resistenza in un certo senso. Buon ascolto e a fra poco. J'ai besoin encore et toujours, j'ai besoin d'entrer chez une femme, d'en sortir au petit jour, avec un peu moins de flamme dans les yeux. Quand je te regarde, dans notre amour à tous les deux, rien que moi qui le garde. J'ai besoin d'entrer chez une femme, chez une autre que toi, toi qui as perdu ma flamme qui était pour toi. J'ai besoin de t'oublier, ne pas te reconnaître partout où je vais. J'ai besoin de renaître. J'ai besoin de vivre devant moi. Ceux qui m'aiment me suivent, je sais toi, tu restes là. J'ai besoin d'aimer, je ne sais rien faire d'autre. J'ai besoin d'aimer, et c'est pas ta faute, c'est ma faute à toi. Toi t'es trop belle, toi t'es trop belle pour moi. Et les belles, elles sont cruelles pour ceux qui les veulent, pour ceux qui les ont pas, pour ceux qui sont tout seuls, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui marchent des heures et qui vont nulle part, pour ceux qui boivent, pour ceux qui ne dorment pas, pour ceux qui chantent chante pour ceux qui chantent, qui chantent pour toi. Bene, sono sempre i 103.1 FM di Radio Città Fujiko e sempre Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Siete in compagnia di Efrei che sta chiacchierando assieme ad Alfredo Mignini ed Enrico Pontieri, autori di Qualcosa di Meglio, biografia partigiana di Otello Palmieri, un libro edito da Pendragon uscito proprio nel 2019 che sono venuti a presentarci in radio. Stavamo chiacchierando con Alf che ci raccontava di questo 14 luglio 1948 a Monteveglio con le armi distribuite ai cittadini, la città barricata, poi questo ritroverete delle informazioni sul nostro sito www.radiovallun.info e avevo interrotto Alf quando ci stava per raccontare quel momento in cui Otello Palmieri, il partigiano di Monteveglio che decide che è arrivata, come tanti, l'ora X della rivoluzione, il 14 luglio del 48, vede che la rivoluzione forse non è andata proprio benissimo come si aspettava, Monteveglio non è diventata una repubblica socialista ed è costretto a darsi la fuga. E la parte più interessante di questo libro, secondo me, perlomeno cioè, la parte che mi ha colpito maggiormente, perché veramente rivela un percorso caratteristico e peculiare, come tutti i percorsi di vita del resto, è quella proprio quando Otello Palmieri va in Cecoslovacchia. In Cecoslovacchia matura un confronto diretto con quello che è un'esperienza del socialismo reale, che allora aveva anche dei tratti mitico-mitologici, diciamo. E inizia poi, adesso la stringo molto dei passaggi molto complessi che i ragazzi raccontano in maniera dettagliata, inizia progressivamente a maturare una forma di disillusione, diciamo, ma questo ce lo racconteranno per l'appunto i ragazzi e lo leggerete dal libro. Quindi Enrico, ti chiederei a questo punto qual è stato questo percorso di Otello e cioè, cosa ci racconta questo del comunismo, anche dell'esperienza storica del comunismo, la figura di questo partigiano dell'Appennino che si ritrova in Cecoslovacchia nei primi anni del 48 e nei primi anni 50. Questo è interessante soprattutto per i diversi piani che ci permette di affrontare in realtà, perché il racconto del suo esilio in Cecoslovacchia ha durato 4 anni e terminato con la sua assoluzione nel processo che lo vedeva tra i protagonisti, ci viene raccontato in due maniere diverse. Una che è quella attuale, diciamo così, e la seconda è quella che possiamo ricostruire noi grazie all'indagine storiografica e grazie agli strumenti propri della storia orale. La prima, di primo acchito, il suo racconto ci parla di una disillusione che parte dalla consapevolezza che il comunismo non può funzionare e che viene maturata durante questi 4 anni in Cecoslovacchia, grazie soprattutto a degli incontri particolari che lui fa, ovvero nello stesso momento in cui il segretario del Partito Comunista Cecoslovacco, Rudolf Slansky, viene processato per alto tradimento, lui conosce una ragazza e conosce soprattutto il padre di questa ragazza, che è un medico ferocemente anticomunista che parla un fluente italiano e che in pratica gli impartisce delle lezioni sulle motivazioni per cui il comunismo dal punto di vista economico e sociale non può funzionare. E nel racconto che ci fa oggi Otello, questa è la ragione per cui lui è profondamente deluso negli anni della Cecoslovacchia. Noi, ricostruendo, incrociando dati, incrociando anche alcune sue parole, alcuni suoi atti che avrebbe fatto, che avrebbe compiuto successivamente, siamo riusciti probabilmente a districarci in mezzo a questa matassa di ricordi in cui il 1989, su cui il 1989 ha posato una patina di delusione anticomunista, e vi abbiamo trovato un nocciolo duro, estremamente interessante, che potrebbe essere riassunto con una frase ad effetto, perché ci piacciono le frasi ad effetto, ovvero la sua delusione all'epoca era che la rivoluzione non si faceva. La rivoluzione non sarebbe venuta, lui l'ha capito durante le scuole di partito e le scuole professionali che ha avuto la fortuna, dice comunque adesso, di fare in Cecoslovacchia, che però l'hanno lasciato profondamente deluso perché non ha visto armi. Lui si immaginava di avere una preparazione militare e di essere paracadutato, come ci ha raccontato, in Italia. Dopo la dichiarazione di insurrezione generale da parte di Togliatti, questo non avviene e questa probabilmente è la sua vera delusione, che viene reinterpretata oggi come un "io lo sapevo già che il comunismo non poteva funzionare". Wow, questi sono, è la bellezza secondo me di ragionare e di lavorare sui percorsi biografici, cioè che ci raccontano veramente tante cose. Qualcosa di meglio, Biografia partigiana di Otello Palmieri, è un libro che vale la pena di leggerlo. Adesso ci rimettiamo di nuovo in fuga, riprendiamo le note di questi pezzi della musica francese che vi stiamo proponendo. Prima abbiamo ascoltato La Rue Nue, adesso Le Pied de la Pompe, e poi ritorniamo in studio per proseguire la chiacchierata con Alfredo ed Enrico. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume rue plein air. On vit de plein pied là où bon nous semble, on a même du soleil en hiver. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume rue plein air. On vit de plein pied là où bon nous semble, on a même du soleil en hiver. On a le confort vu qu'on a tout, connecté sur le monde réel. On se réchauffe quand on joue, et on se balade en diesel. Ça fait visiter du pays, et parfois même jusqu'à Toulouse. On rencontre de nouveaux amis. Il faut dire que vos enfants poussent. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume plein air. On vit de plein pied là où bon nous semble, on aime du soleil en hiver. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume plein air. On vit de plein pied là où bon nous semble, on aime du soleil en hiver. Avec le petit confort, c'est ce qu'on explique aux gendarmes le matin, quand ils nous réveillent un peu fort. Emmener les croissants et le pain, on a un mètre carré de bonheur, et s'il faut on fera de la place. Que tu sois voleur ou chômeur, on restera les voyous de la place. On habite la villa la plus belle de France, sur bitume rue plein air. On vit plein pied là où bon nous semble, on aime du soleil en hiver. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume rue plein air. On vit de plein pied là où bon nous semble, on aime du soleil en hiver. Pas d'eau courante à la maison, mais la porte ouverte sur la mer. On ne se pose plus de questions, nous on se la joue à la fraîche. C'est fluctuac, nec mergiture, c'était pas de la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sort, les copains d'abord. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume rue plein air. On vit de plein pied là où bon nous semble, on aime du soleil en hiver. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume rue plein air. On vit de plein pied là où bon nous semble, on aime du soleil en hiver. Bene, torniamo dalla Francia, torniamo in Emilia in un certo senso, torniamo a Bologna. Siete sempre su 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Questa è Ballun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. E Enrico prima ci raccontava di due piani in cui è suddivisa la memoria, di fatto, e due piani che vengono ricostruiti all'interno del libro, ed è questa secondo me una dei, cioè uno dei meriti di questo testo. Adesso non è piaggeria perché sono persone che conosco da tanti anni, che hanno collaborato a vario modo con Ballun, per cui dico queste cose, ma perché è veramente qualcosa di molto particolare. Questo libro è un libro di storia, scritto da due storici, che racconta una ricerca, di fatto, facendolo però con una modalità di scrittura, di narrazione e di costruzione volontaria della ricerca, cioè del testo storico, diciamo, con una modalità che secondo me è abbastanza originale per i libri di storia italiani. In Francia è più frequente mescolare questi canali queste forme diverse del linguaggio storico e mescolare delle fonti anche diverse. Qua da noi è un po' più raro, la scrittura storica è un po' più ingessata, abbiamo naturalmente Carlo Ginzburg con Il formaggio e i vermi, però non possiamo continuare a far riferimento solo a lui. E, Alf, ci puoi raccontare, o Alf e Enrico, ci potete raccontare come avete costruito questa narrazione così particolare in cui, vi va dato merito, riuscite a rendere conto proprio di questi due piani, voi che scavate nell'intervista, nella testimonianza orale e i documenti che vi aggiungono qualcosa. Sì, no, grazie mille Frey, non soltanto per tutti questi complimenti che ci fai, che chiaramente sono interessati, forse vuoi una copia del libro, non lo so. Già comprata a Oliveto. Ah, perfetto, ok. No, però scherzi a parte, ci fa molto piacere che ci chiedi questa cosa e ci permetti di andare un pochino a fondo sul modo in cui abbiamo provato a costruire questa storia. Sicuramente esageri, nel senso che noi non ci siamo inventati nulla, anche in Italia ci sono importantissimi esempi a cui noi chiaramente ci siamo ispirati, da cui abbiamo tratto delle riflessioni, degli esempi e anche con cui proviamo ad entrare in dialogo. Uno fra tanti, lo cito soltanto perché lo mettiamo in esergo, Manlio Calegari per noi è stata una lettura molto importante proprio per la capacità che ha avuto lui nei suoi libri, noi citiamo La sega di Hitler, di riuscire a integrare la sua visione, il suo modo di approcciare quella storia e le parole, l'intervista delle persone che lui con cui va a fare un ragionamento. Ecco, diciamo, noi veramente non ci siamo inventati nulla, non è falsa modestia, nel senso che la storia orale ti obbliga a introdurre una dimensione dialogica all'interno del testo, una dimensione dialogica che c'è sempre comunque anche quando utilizzi delle fonti diverse, dei documenti. In questo caso era impossibile non farla venire a galla, non metterla in primo piano e quindi provare da un lato a tenere distinti i due piani, quello del racconto di Otello virgolettato e utilizzato e trattato come una fonte e quello nostro, della nostra riflessione, dei nostri ragionamenti che vanno avanti e che progrediscono anche un pochino con la storia. Noi abbiamo provato a fare quello, anche qui hai colto un punto, ci fa molto piacere che hai colto questo punto, perché abbiamo provato un po' a intervallare, se ci passi il termine, le forme del diario di ricerca, in cui noi spieghiamo come scopriamo degli elementi, come ragioniamo intorno a degli elementi, e la storia narrata come una storia che ha una sua fabula, un suo intreccio, che è la vita di questa persona con cui noi abbiamo speso diverse ore. Bene, andiamo ancora un attimo in musica e poi iniziamo a chiudere questa bella chiacchierata che abbiamo fatto con Alfredo Mignini ed Enrico Pontieri, che ci hanno portato in trasmissione Qualcosa di meglio, biografia partigiana di Otello Palmieri, edito da Pendragon 2019 e prossimamente presentato anche a Bologna. Allons, buvons un verre, juste pour refaire le monde. Resterons-nous longtemps sans rien faire, à écouter nos cœurs qui grondent au fond d'un verre, derrière un rire qui laisse entendre un peu de bonheur. Vu que ça ne pourra jamais être pire, remettons donc les pendules à l'heure. Mais pas à leur santé, vu ce qu'ils en font de la nôtre et ce qu'ils arrivent à nous faire avaler, qu'on ne peut plus compter sur les autres. Mais moi sur mon chemin j'ai rencontré bien plus de personnes que ça. On est tout plein, voire presque des millions, à ne plus vouloir marcher au pas. Yallah, yallah, ça a sonné, les secondes passent sans nous attendre. Rouhou ensemble avant que le temps vienne nous tuer. Yallah, yallah, ça a sonné, les secondes passent sans nous attendre. Rouhou ensemble avant que le temps vienne nous tuer. Allons, marchons un peu, le temps du poing levé, comme une étincelle mettant le feu à nos enfants désabusés, au fond de nos rêves oubliés, que le long des terres de temps en temps pour se rappeler que rien ne meurt, mais que le temps peut tout effacer. Et face à leur mépris des hommes et de la raison, de nous faire croire que tout a un prix et que leur système est le bon. Mais moi sur mon chemin j'ai rencontré bien plus de personnes que ça. On est tout plein, voire presque des millions, à vouloir changer ce monde-là. Yallah, yallah, ça a sonné, les secondes passent sans nous attendre. Rouhou ensemble avant que le temps vienne nous tuer. Yallah, yallah, ça a sonné, les secondes passent sans nous attendre. Rouhou ensemble avant que le temps vienne nous tuer. Allora, è sempre la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, sono i 103.1 FM di Radio Città Fujiko e siamo in e stiamo raccontando qualcosa di meglio, biografia partigiana di Otello Palmieri con Alfredo Mignini ed Enrico Pontieri. Enrico, il nostro spazio sta terminando, per cui un'ultima battuta. Alfredo ci raccontava di come avete costruito questa narrazione, di quali integrando delle forme diverse del racconto. La cosa bella che di cui ti chiederei veramente un'ultima battuta è quella degli oggetti che compaiono, che utilizzate come quasi degli amuleti, verrebbe da dire, se fosse Boccaccio, per inseguire questo percorso di vita. Ce li puoi spiegare? Sì, ci sono degli oggetti che scandiscono il tempo e anche le tappe della vita di Otello e che abbiamo ritrovato grazie alla sua disponibilità, ovviamente, alla disponibilità di Otello, e che sono stati fondamentali per capire meglio il suo percorso biografico, le sue traiettorie di vita, le sue scelte anche. Tra questi, per esempio, abbiamo le valigie che lui ha portato dalla Cecoslovacchia e che per un caso fortuito sono rimaste fossilizzate per tutto questo tempo, sono state riaperte solo 3 anni fa, nella cantina di una sua sorella. Quindi ci hanno consegnato i ricordi e soprattutto gli oggetti che lui voleva portarsi, che quindi erano i più importanti nella sua esperienza dell'epoca, al presente. È stata una scoperta simile alla tomba di Tutankhamon, perché durante una delle nostre conversazioni abbiamo visto, spoiler, saltare fuori dalla sua valigia una fotografia di Palmiro Togliatti. Ma come? Ma non era disilluso completamente dal comunismo? Poi dopo torna a Bologna e si porta dietro Togliatti? Altro spoiler, nell'ultima scena di questo libro sarà messa in risonanza questa fotografia con un'altra fotografia molto più recente, ma qua mi devo fermare. Beh, grazie mille per essere stati qua intanto. Ciao Frey, grazie per l'invito. Ciao, a presto. Ascoltate Vallun e Fujiko. Ringraziamo ancora Enrico e Alfredo che sono venuti a trovarci nei nostri studi su Radio Città Fujiko e io vi ricordo un appuntamento importante che è il lunedì 3 giugno alla Coppa Ambasciatori in Via degli Orefici, quindi in centrissimo a Bologna, alle ore 18 ci sarà proprio la presentazione del libro Qualcosa di Meglio, biografia partigiana di Otello Palmieri per Pendragon Edizioni, e saranno presenti proprio Alfredo Mignini e Enrico Pontieri. E allora noi ci vediamo lunedì puntuali alle 18 e invece su Radio Città Fujiko ci vediamo sabato prossimo per la vostra mezz'ora di storia. Ciao!